di ogni mercoledì, che va in onda ogni mercoledì dalle 15 alle 16, quindi sono le 15 e 11 minuti dopo la sigla. Un augurio di buona giornata e buon ascolto a tutti e tutti, e in particolare di buona libertà per coloro che ne sono privati o private. Der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und McKeith, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht an einem schönen blauen Sonntag. Liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mackie-Messer nennt. Und Schmulmeier bleibt verschwunden, wie so mancher reiche Mann. Und sein Geld hat Mackie Messer, dem man nichts beweisen kann. Jenny Tauler ward gefunden mit einem Messer in der Brust. Und am Kai geht Mackie Messer, der von allem nichts gewusst. Und das große Feuer in Soho, sieben Kinder und ein Greis in der Menge, Mackie Messer, den man nicht fragt und der nicht weiß. Die minderjährige Witwe, deren Namen jeder weiß, wachte auf und ward geschändet. Mackie, welches war dein Preis? Denn die einen. E allora vediamo cosa è successo questi giorni. Purtroppo, come abbiamo visto dalle lettere che c'erano arrivate alcune la settimana scorsa, insomma, c'era molti detenuti, e molti detenuti avevano riposto delle speranze sulla, diciamo, sulla discussione che è avvenuta prima alla Camera e poi al Senato, il Senato proprio l'altro ieri, e sulla questione carceri, cioè alcune pressioni, lo sciopero della fame di Pannella e altre avevano posto al governo di mettere all'ordine del giorno la discussione della questione carceri. È avvenuta prima alla Camera, l'altro ieri al Senato. Leggiamo qui l'agenzia che ci dice la conclusione del dibattito al Senato. Il Senato approva la risoluzione sulle carceri presentata dalla maggioranza. Il Senato ha approvato la risoluzione della maggioranza firmata da PDL, Lega, sull'emergenza delle carceri al termine della seconda seduta dedicata all'argomento. La prima era avvenuta mercoledì scorso alla Camera. Le altre proposte di risoluzione sono state tutte respinte, ad eccezione di quella in tema di ospedali psichiatrici giudiziari, gli OPG, e di specifiche parti dei dispositivi di alcune di esse. La mozione di maggioranza impegna il governo, tra l'altro, ad attuare la riforma della normativa in tema di custodia cautelare, che è l'unica cosa che in realtà ha proposto, il resto sono chiacchiere. Questa non è una normativa, è una precisazione del tema della custodia cautelare, da considerare come estrema ratio. In realtà è quanto diceva il codice di procedura penale approvato nel 2000, e varare una riforma del rito per direttissima, evitando brevi transiti dei detenuti negli istituti di pena nelle carceri, estendere a tutti i reati l'uso della videoconferenza, risparmiando così le traduzioni, ma questa è una cosa che riguarda loro, risparmiano, non è che porta nessun beneficio ai detenuti, anzi al contrario, a proseguire la politica degli accordi bilaterali per favorire i condannati stranieri a trasferirli nei paesi d'origine, completare l'organico della polizia penitenziaria, razionalizzare le misure alternative alla detenzione, che non si capisce che vuol dire razionalizzare, monitorare l'attuazione al pari di quella delle attività svolte alla rieducazione culturale e al reinserimento lavorativo dei detenuti. Come vedete, poi c'è ancora altro, no? Vabbè, il governo si è dichiarato disponibile ad accogliere gli impegni a promuovere una riforma coerente del sistema intervenendo sul diritto penale sostanziale, che pure questo è una cosa altro molto rischiosa, il diritto penale sostanziale, vabbè, comunque, rivedere le norme sulla custodia precautelare, insomma, senza adesso leggere tutta la lunga nota d'agenzia, in realtà queste due audizioni, dibattiti praticamente alla Camera mercoledì scorso e al Senato ieri, hanno prodotto nulla, come era facilmente prevedibile, anche se purtroppo avevano suscitato alcune così aspettative da parte dei detenuti e detenute, ma in realtà lo stesso Pannella, al momento che hanno accettato la sua richiesta di un dibattito parlamentare, però quando ha visto la formulazione delle proposte scritte ha detto non si farà niente, no? Non si caverà manco il topolino, ed era facilmente prevedibile, perché appunto il problema, l'abbiamo detto più volte, poi su questo ci torneremo perché è un punto centrale. Non è che questo governo, ma anche questo ceto politico, le forze politiche esistenti nel Parlamento italiano hanno volontà di allentare la stretta carceraria, anzi il contrario, la tendenza che si nota non solo in questa società, quindi non è un fatto specifico di questo governo né di questa opposizione, perché è abbastanza generalizzabile in tutta Europa, forse qui con una dose come sempre di volgarità maggiore, però è così. L'unica cosa che ha proposto il neo ministro della giustizia Nitto Palma è questa questione della non obbligatorietà della custodia cautelare per il processi per direttissima, perché si era notato, i dati che portavano erano abbastanza eloquenti, che alcuni processi per direttissima sono quelli che appunto vengono effettuati quando una persona viene presa in flagranza di reato, quindi fatti veramente il giorno dopo dell'arresto, spesso appunto sono piccoli furti, scippi, cose così, e in genere producono una carcerazione di pochi giorni, e quindi la persona viene buttata in carcere e poi vi rimane alcuni giorni e poi esce, perché appunto il reato, una volta stabilizzato, iniziata la fase processuale, non prevede la custodia cautelare per quel reato una volta formalizzato il reato. Quindi per evitare questi permanenze molto brevi in carcere, che più che altro inceppano tutto il meccanismo appunto delle matricole, degli studi penitenziari, si è proposto, non è ancora avvenuta questa cosa, che per la custodia cautelare, cioè la permanenza in carcere dell'arrestato sottoposto al processo per direttissima, questa cosa verrà appunto non attuata tramite appunto la carcerazione preventiva, cioè non passerà direttamente dalle celle di sicurezza del commissariato o della tenenza dei carabinieri, della caserma dei carabinieri, dove è stato arrestato, in genere ci sta la prima notte, con esiti che purtroppo spesso sappiamo, no? Il caso di Stefano Cucchi insegna, insomma, una persona appena arrestata la prima notte la passa nella questura, commissariato o anche caserma dei carabinieri, laddove è stato arrestato, e la mattina dopo si presenta al processo col rito direttissimo, e poi immediatamente dopo il rito direttissimo viene trasferito nelle carceri. Poi, una volta formalizzato l'imputazione, spesso il reato è talmente lieve che non prevede l'arresto preventivo, e quindi si rinvia o gli arresti domiciliari oppure addirittura lo si libera definitivamente. Ecco, questo meccanismo, semplicemente su questo meccanismo vuole intervenire il governo. Per il resto, e poi ha accolto la come dire, la tensione che era abbastanza unitaria della vergogna degli ospedali psichiatrici giudiziari, che ormai questi sono non più, dopo che sono state fatte vedere le immagini di questi manicomi criminali in televisione, in realtà si sono resi conto al governo, l'opposizione, tutte le forze politiche, che la sensibilità, per quanto abbastanza, come dire, non meravigliosa, della popolazione italiana, tuttavia non ha sopportato quelle immagini da veri e propri lager di tortura. Negli OPG in realtà la gente è sottoposta a vere e proprie torture, quindi l'indignazione, minima di indignazione dei giornali, di intellettuali, delle stesse persone, ha fatto affermare al governo e a tutte le forze politiche, hanno detto: dovremo cercare di svuotare via via gradualmente questi OPG. Ovviamente pure questo è una promessa, non è una certezza, però perlomeno queste sono le due linee su cui si muoverà il governo. Tutto il resto, aumento delle misure alternative, piccola amnistia, piccolo indulto, sono state totalmente rigettate. Rimane l'emergenza carcere. L'emergenza carcere, però, l'abbiamo detto, non dà nulla ai detenuti e alle detenute, cioè non ha nessun elemento che va a favore di chi sta in carcere. È un elemento invece che gioca a favore per chi intende costruire nuove carceri, perché la categoria di emergenza permette di scavalcare una serie di controlli nella fase di progettazione e di costruzione di nuove carceri, e questa semplificazione del controllo aiuta a fare, come dire, il business sulla costruzione di nuove carceri. Questo è l'elemento reale che viene fuori. Quindi purtroppo, infatti qui dice ancora l'agenzia, respinte le risoluzioni dei radicali, che invece chiedevano di cominciare a tessere un progetto di amnistia e di indulto, è stato completamente respinto. E anche la mozione del PD Italia dei Valori sono state completamente respinte. Quella del PD Italia dei Valori, che è scritta proprio da Ignazio Marino, quello che ha messo in luce, medico, no? Che ha messo in luce quello che ha fatto quel reportage sugli OPG, e erano per la svuotamento rapido, quindi per l'individuazione di tempi reali, no? Quindi per svuotare gli OPG e assicurare la cura di queste persone con disturbi mentali che stanno negli OPG alle ASL, ASL, le ASL che curano tutte le malattie, quindi voglio dire anche l'eventuale disturbo mentale in gran parte è abbastanza fittizio, probabilmente non esiste, insomma, però comunque sia come uno, se c'ha un ulcera si cura all'ASL, così uno che c'ha un disturbo mentale si cura all'ASL lo stesso. Questo dovrebbe, non si capisce perché chi c'ha l'ulcera non vive a casa sua e ogni tanto va a farsi una visita dal medico, e chi invece ha il disturbo mentale viene internato, cioè sequestrato dallo Stato e buttato in un lager e torturato. Questa infatti è una cosa che è indifendibile, per cui nessuno ha detto devono rimanere gli OPG, perché non lo poteva dire, altrimenti era sanzionabile, niente dal punto di vista legale, però insomma faceva ribrezzo al mondo intero. Nessuno l'ha detto, però in realtà ancora tutt'oggi, ed è 28 settembre 2011, vi sono 1500 persone sequestrate, perché non c'è nessuna legge né regola perché queste persone siano in carcere, non perché hanno fatto qualche non stanno scontando una pena, sono sequestrate dallo Stato la cultura primitiva, volgare, abietta, elaborata da un pregiudizio, quindi una falsificazione psichiatrica, porta a dire queste persone sono malate di mente, quindi pericolose, e quindi vengono sequestrate, veramente sequestrate, rinchiuse in maniera totalmente illegale in dei posti, torturate, perché messe in condizioni in cui subiscono la tortura, l'elettroshock, il letto di contenzione. Queste sono vere e proprie torture, tra l'altro tra le peggiori delle torture esistenti oggi sulla faccia della terra. È inutile quindi che abbiamo la prosopopea di criticare i paesi, i luoghi dove si tortura. In Italia sì, lo Stato democratico italiano, quello della Costituzione, quello del signor Napolitano, tortura come ben 1500 persone sono sequestrate illegalmente dallo Stato e vengono quotidianamente torturate. Questo poi anche nelle carceri vi sta una bella fetta, però quelle sono ufficialmente da tutti riconosciute come persone sequestrate e torturate. Bene, comunque un come al solito non ha partorito niente, oppure se volete la montagna ha partorito il topolino. La previsione dello stesso ministro è che con questa riduzione dell'arresto preventivo per i reati per direttissima probabilmente 2000 persone scenderà la somma della presenza in carcere di 2000 persone, quindi queste le sue previsioni saranno sì e no un migliaio, per cui non produrrà assolutamente niente. La situazione rimane tale e quale. Non solo la situazione rimane tale e quale, ma a volte con degli escamotage la fanno proprio peggiorare, naturalmente a discapito poi dei soliti noti. E quindi adesso ci interessava andarvi a leggere appunto dei commenti che hanno fatto dei detenuti al processo lungo, appunto in a differenza del processo breve, perché appunto adesso, senza entrare nel merito proprio di tutta la trafila che è partita dall'aprile 2011, dove appunto quando si stava discutendo l'approvazione appunto il cosiddetto processo breve eccetera eccetera, quello che interessava sottolineare che appunto con degli emendamenti appunto alla legge del processo breve, al posto di trovare degli accorgimenti per velocizzare appunto i processi, le procedure, ne è stato trovato uno invece che va proprio nella direzione diametralmente opposta, come dicono anche Ristretti. È stato inventato appunto il processo lungo, e qualche detenuto l'ha chiamato l'ergastolo lungo, e poi andremo a vedere perché, infatti. E un breve preambolo appunto che con l'introduzione del processo lungo l'intenzione appunto è quella di modificare degli articoli del codice di procedura penale riguardanti appunto le citazioni dei testi, disponendo appunto che l'imputato ha la facoltà di portare in dibattimento, per farle interrogare, tutte quelle persone che rendono dichiarazioni a suo carico, come appunto saprete, senza limite di numero. E quindi poi appunto fanno l'esempio del caso Tanzi, eccetera. Quindi il processo lungo, dice, non tende ad abbreviare le procedure ma ad allungarle. E se si mettono appunto assieme gli effetti del processo breve da una parte e quelli del processo lungo dall'altro, si ottiene che l'imputato appunto facoltoso, come già è stato detto mille volte, portando in aula un numero di testi proprio allungato e indeterminato può allungare appunto la durata di questi processi quanto vuole, e quindi poi dopo si arriva a un tempo massimo fissato appunto dalle norme introdotte da questo processo breve, e il procedimento va in cavalleria, cioè va in prescrizione, e così appunto facendo l'impunità è garantita. E ora ci sono stati appunto dei detenuti che hanno voluto commentare tutto questo, e ci sta appunto per esempio Antonio Floris, che su Ristretti Orizzonti dice appunto che il popolo italiano, dice, nonostante abbia fatto l'abitudine ad essere indifferente e insensibile ai problemi della giustizia, dice, quando sente prima parlare della necessità di instaurare nell'interesse di tutta la comunità il sistema del processo breve, e poi sente parlare appunto di instaurare sempre nell'interesse di tutta la comunità, per carità, il sistema del processo lungo, ne resta probabilmente disorientato e si sente preso in giro, perché capisce che la cosa non riguarda affatto la popolazione intera, ma una persona sola o tutto al più un ristrettissimo gruppo. Allora si indigna, trova appunto la forza di indignarsi e grida lo scandalo, dicendo che è l'ennesima legge ad personam, ma insomma così via. Allora che succede? Per convincere la gente della necessità di questa legge, si è pensato di ripetere lo stratagemma che già era stato collaudato con la ex Cirielli, e cioè inserire assieme a delle norme impopolari, perché appunto a vantaggio quasi esclusivo di pochissimi, che fanno insieme a queste norme impopolari preparano altre norme che invece trovano tutti d'accordo nel votarle, in quanto garantirebbero più sicurezza e tranquillità ai cittadini. In sostanza però, in effetti, dice appunto Antonio Floris, un altro giro di vite contro i criminali, virgolettato. Insomma, cosa si è pensato di fare questa volta? Quando in sede processuale la pena prevista è l'ergastolo, e di questo appunto dibattono i detenuti principalmente, l'imputato non può più ricorrere al rito abbreviato. Inoltre si è pensato di rendere più difficile l'accesso ai benefici penitenziari, per cui appunto si era abbattuto Cirielli, eccetera, per quei detenuti appunto condannati per omicidio con determinate aggravanti, e quindi di rendere più difficile questo accesso ai benefici, innalzando il tetto per l'accesso ai suddetti benefici. Dall'attuale metà pena, che prima era metà pena, lo si vorrebbe a 2/3 o, secondo i casi, anche a 3/4. E in caso di condanna all'ergastolo, udite udite, dopo almeno 26 anni di pena espiata. Ora dico 26 anni o la vita intera, non ho capito poi, qui stiamo parlando di spiccioli. Ebbene, dice Antonio, tralasciando di parlare di quali saranno i vantaggi pratici che ne possono venire con l'introduzione di processi brevi, lunghi, dice, vediamo un po' che cosa ne potrebbe guadagnare la popolazione in termini di sicurezza, tranquillità, dall'introduzione di queste norme a danno degli imputati. Insomma, bisognerebbe incentivarle le misure alternative, non limitarle. Adesso non vi leggo appunto tutto l'articolo che scrive Antonio, però questo è il succo, insomma, che bisognerebbe appunto incentivarle, tant'è che a un certo punto dice andiamo a vedere, dice che quelli che escono dal carcere in misura alternativa delinquono molto di meno, è un dato di fatto, appunto da questi microfoni l'abbiamo sempre ripetuto, e visto che è così, se si vuole dare più sicurezza alla società bisognerebbe incentivarle le misure alternative, non limitarle. L'inserimento nel disegno di legge di queste norme contro i detenuti, che sono di facile approvazione in quanto ovviamente fanno leva sulle paure della gente, ha il solo scopo di fare approvare quelle altre norme impopolari che sono contenute nello stesso disegno di legge e che sono state invece pensate a vantaggio di pochi, per evitare loro appunto le condanne, perché questi pochi potenti non diventino poi anche loro detenuti, per carità. Allora, che si mandino pure avanti le leggi sui processi, o brevi o lunghi che siano, ma che si abbia almeno il coraggio di presentare le cose nella loro essenzialità, senza aggiungere norme delle quali non si sente affatto la necessità e il cui unico scopo è quello di buttare fumo negli occhi alla gente. insomma, i detenuti capiscono perfettamente, forse meglio di noi qua fuori, di come si stia veramente prendendoli, come, usando un francesismo, prendendoli per il culo. E difatti poi possiamo leggere qualche altro commento. Vediamo che dice, per esempio ci sta Miroslav, che dice appunto, chiede chiaramente, dice: ma che cosa c'entra il processo lungo con l'ergastolo lungo? Dice: l'ergastolano diventa come una specie di pianta che mangia, beve e vegeta. E dice Miroslav: tutti parlano della legge cosiddetta processo lungo, ma discutono solo di una parte di questa legge, che qualcuno chiama anche legge salva persona, perché tocca, inutile dire chi, il premier. Se però, dice, io dicessi ergastolo lungo, tanti si chiederebbero cosa c'entra questa definizione con il processo lungo. Tutti hanno qualcosa da dire riguardo a lui, virgolettato con la L maiuscola, lui il premier, ma nessuno pensa a commentare o a ragionare sulla seconda parte della stessa legge. Quella legge usa due misure. Da una parte il processo lungo vorrebbe essere garantista, dall'altra c'è quell'ergastolo lungo che è veramente forcaiolo. Dice: io conosco bene il carcere, ci sto da molto tempo, ma non riesco a immaginare come si possa sentire una persona condannata all'ergastolo sapendo che come minimo deve scontare 26 anni prima di poter chiedere un permesso premio, che non significa fine della pena, ma solo trascorre qualche ora con i propri cari fuori dal carcere, qualche ora, dico, dopo 26 anni. Dice: quando penso che ci sono persone con pene brevi che si disperano, si fanno male e qualcuno anche si suicida, mi convinco sempre di più che se passa questa legge il condannato all'ergastolo diventa un murato vivo e l'ergastolo diventa una pena di morte camuffata, perché ti lascia in vita per darti una morte lenta, molto lenta. Praticamente un condannato all'ergastolo comincia a morire giorno dopo giorno senza nessuna speranza di futuro. L'ergastolano diventa come una specie di pianta che mangia, beve e vegeta. Mi chiedo se si può chiamare vita quando uno diventa uno zombie che cammina, sì, parla, ma è vivo solo fuori, mentre dentro la sua anima è morta. Tra l'altro, parentesi, mi viene in mente un secondino, appunto una guardia carceraria, che in una visita fatta appunto dentro il carcere diceva: ma sì, ma insomma, ma in fondo che cosa gli manca? Solo la libertà. Ecco, infatti, solo la libertà. A parte che non gli manca solo la libertà, ma molte altre cose, appunto le affettività, il sesso e quant'altro, insomma. E comunque continuiamo con la lettera di Miroslav. Dice poi: ammettiamo che uno sopravviva. Che tipo di persona diventa dopo così tanti anni passati in carcere? Nessuno, dice, si è chiesto con quale stato d'animo mentale e fisico questa persona esce dopo qualcosa come 20 o 30 anni di carcere? Dopo 30 anni di carcere, ma cosa può dare una volta libero alla società, ai suoi familiari, uno che è stato allontanato così a lungo dalla vita normale? Una legge così niente ha a che fare con la pena giusta, ma diventa una vendetta pura. Mi chiedo dove sia finita l'umanità, dove sono i diritti umani, dove è finito il diritto di un condannato di poter ritornare alla vita sociale come previsto dalla Costituzione. Con questa legge, che percorso rieducativo ci si può aspettare da uno che è ben consapevole che un futuro per lui non esiste e che è condannato a una morte lenta, fisica e mentale? Dopotutto, una condanna alla pena di morte sarebbe molto più onesta, una conclusione sulla quale convengono molti condannati all'ergastolo, tant'è che sappiamo che è stata fatta una lettera appunto chiedendo di cambiare l'ergastolo con la pena di morte. E questa, insomma, è una delle lettere, poi dopo casomai ne leggeremo qualche d'un'altra. Head. at prime time. The sleeping gas, every home was like Alcatraz, and motherfuckers lost their minds. Just victims of the in-house drive-by. Face it, don't you say how high. Yeah. Just victims of the in-house drive-by. Face it, don't you say how high. E dunque invece ci sta Stefano, che è un detenuto presso la casa di reclusione di Padova e che scrive una lettera aperta al Presidente della Repubblica. Oggi dice: ho capito concretamente di essere diventato come detenuto una qualsiasi merce di scambio. Dico e penso questo perché dentro a un carcere sovraffollato, oltre ad essere privato di molti dei diritti previsti dalla Costituzione, avverto il concreto pericolo che i nostri benefici, come i permessi, le misure alternative, che già tra l'altro sono difficili da ottenere, vadano a svanire del tutto con l'attuale disegno di legge del processo lungo. Sì, perché questa legge che stanno per approvare, come al solito, è una medaglia con il suo rovescio, cioè la facciata è garantista, democratica, a favore dei grandi del sistema politico attuale e molto probabilmente futuro, quindi Berlusconi e altri. Il rovescio tocca la gente che ha sì sbagliato, ma non può essere solo bastonata. Io spero vivamente che ciò non avvenga. Perciò dal presidente Napolitano mi auguro un concreto intervento su questa legge scandalosa, che aggiungerebbe soltanto altre problematiche a quelle attuali del sistema penitenziario. Signor Presidente, tutti possiamo commettere degli errori ed è giusto che ognuno si assuma le proprie responsabilità. Quindi io sono qui a pagare il mio conto con la poca dignità rimasta in questi luoghi. Ma se oltre a toglierci questa poca dignità ci viene tolta la speranza di un futuro migliore, più onesto, se vengono resi impossibili i percorsi di reinserimento con i benefici previsti, perderemo tutto. Per salvare i grandi del sistema, ecco che ci sentiamo e diventiamo merce di scambio e non persone da correggere nei propri errori e di inserire in una nuova vita a favore della società. Tutto questo, signor Presidente, lo sta scrivendo uno tra i tantissimi detenuti che, se dovesse passare questa legge del processo lungo, essendo condannato per omicidio con fine pena nel 2033, non avrebbe veramente più nessuna speranza futura. Mama, thinks I'm living in a convent, a secluded little convent in the southern part of France. Mama doesn't even have an inkling that I'm working in a nightclub in a pair of lacy pants. So please, sir, if you run into my mama, don't reveal my indiscretion. Give a working girl a chance. Don't tell mama, shush. Don't tell mama, don't tell mama. Whatever you do, if you had a secret, you bet I would keep it. I would never tell on you. I'm breaking every promise that I gave her. So would you kindly do a girl a great big favor? So please, my sweet potato, keep it from the maid. Though my dance is not against the law. E allora le parole appunto sono quelle che hanno detto i detenuti. Vediamo, passiamo dall'altra parte, facciamo questa specie di gioco a doppio registro. Abbiamo visto le parole del governo e della maggioranza nel dibattito parlamentare alla Camera prima e poi al Senato, quindi non ce n'è per nessuno. Vediamo adesso i punti, i 10 punti, sono 10 punti che l'opposizione, il PD in particolare, ha proposto in questo dibattito per le ha portati Sandro Favi, responsabile nazionale carceri della direzione del PD. Perché li vogliamo leggere? Perché siccome appunto in questi paesi tra un po' sarà il prossimo anno, il 2012 o quello a venire, ci sarà un cambio di governo, è bene che tutti noi ne prendiamo nota, noi le conserveremo questi 10 punti, ma chiediamo a voi di fare altrettanto, perché quando così andranno al governo loro sarebbe opportuno andare a chiedere se mantengano fede a queste cose che non sono niente di spaventoso, ma che noi siamo sicuri non metteranno in pratica, perché siccome purtroppo in questa società è un difetto gravissimo avere buona memoria, però noi abbiamo buona memoria, abbiamo questo difetto, ognuno c'ha i suoi, e ricordiamo come appunto anche qualche anno fa, diversi anni fa, quando era all'opposizione, il PD aveva proposto una serie di misure sulle carceri, poi è andato al governo e non ne ha mantenuta nemmeno una. Comunque vediamo quali sono i 10 punti ne ha messo. Il primo punto: revisione dei meccanismi della custodia cautelare che determinano l'elevata presenza di detenuti per periodi brevi, primo punto. Secondo punto: un'efficace depenalizzazione dei reati minori e la contestuale revisione del codice penale. Questa cosa, di questo punto qui, se ne discute perlomeno da 58 anni, ma non si è ottenuto niente. L'abbiamo ripetuto e lo continuiamo a ripetere fino alla nausea. In Italia abbiamo ancora il codice penale del 1931, quello fatto dal guardasigilli Rocco, scritto e firmato da Benito Mussolini. L'Italia antifascista, democratica, repubblicana non l'ha cambiato il codice penale. In realtà non ha cambiato nulla, perché il codice penale è il pilastro centrale su cui si basa un sistema, è il sistema giuridico per eccellenza, quindi è il sistema che regola i rapporti tra Stato e cittadino, quindi è il caposaldo del nuovo regime. Essendo rimasto quello del fascismo, in realtà parlare di Repubblica Democratica è un po' una stupidità, questo pensiamo noi, infatti sono stupidi quelli che esaltano la Repubblica Democratica, perché non è ancora venuta. Comunque, parla ancora di revisione del codice penale, che si aspetta appunto da troppo tempo. Terzo punto: abrogazione delle norme della legge ex Cirielli, quindi specifica, dovrebbe abrogare la legge ex Cirielli, quella della recidiva, quella che tiene in carcere oltre 15.000 persone perché prolunga le pene, perché non consente le attenuanti a chi è recidivo e così via. Poi il quarto punto: rilancio delle pene alternative, specialmente di quelle supportate da progetti professionalmente strutturati, eccetera eccetera, quindi aumento delle misure alternative. Quinto punto: modifica della legge Fini-Giovannardi in materia di stupefacenti, quindi dovrebbero abrogarla. Quando sono andati al governo alcuni anni fa non l'hanno abrogata, anche se avevano proposto di abrogarla. Quindi, però di nuovo dicono di abrogare la Fini-Giovannardi, quella che manda in carcere, quanti sono? 28.000 tossicodipendenti che sono in carcere per questa, una delle più tremende, brutte, schifose leggi che esistono sulla faccia di questa terra, la Fini-Giovannardi. Qui dice appunto l'aumento delle risorse per l'affidamento ai CERT e dalle comunità terapeutiche dei tossicodipendenti autori di reato, per i quali il carcere è la condizione peggiore, eccetera eccetera. Sesto punto: assunzione di 1.000 operatori professionali civili, non guardie, cioè educatori, assistenti sociali, eccetera, e psicologi, e anche adeguamento della polizia penitenziaria. Settimo punto: estensione dell'istituto della messa alla prova, anche questo una cosa che se ne parla dal 49, ma come vedete siamo arrivati al 2011, gli anni passano. Cioè, la messa in prova significa che per soprattutto al primo reato e per piccole, diciamo, per pene brevi, si mette alla prova il detenuto. È un istituto giuridico molto presente nel mondo anglosassone, si mette in prova, torna libero. In realtà c'è una specie di condizionale che, se dovesse, però dopo la condanna si mette alla prova, non si va a venire in carcere, gli si dice, insomma, non commettere altri reati, altrimenti poi torni a scontare anche questo. L'ottavo punto: predisposizione delle condizioni per l'accesso alle misure alternative per gli immigrati condannati. Anche questo meccanismo, come sapete, in carcere ci sono le due grosse popolazioni, sono i tossicodipendenti, appunto 25-26 mila, gli immigrati sono anche loro, assumono altrettanti, sono circa il 40% delle presenze in carcere, e qui si dice che loro non riescono a ottenere le misure alternative per difficoltà oggettive di carenze legislative, perché si richiede un domicilio, si richiede una famiglia, si richiede un lavoro, ovviamente essendo immigrati non hanno né l'uno né l'altro, e quindi c'è un trattamento differenziato, un trattamento anche razzista, perché se la legge richiede dei requisiti che non tutti hanno, è chiaro che usa due pesi e due misure, non dovrebbe farlo, quindi le leggi andrebbero riformulate. Tutte le leggi realizzate in questo paese, per esempio quelle per l'accesso alle misure alternative, sono realizzate tenendo presente il detenuto italiano che ha quindi dei parenti, una famiglia, un domicilio, eccetera. Non tengono conto che ci possono essere delle persone che non hanno questi requisiti perché sono di recente immigrazione, quindi non hanno un domicilio, non hanno una famiglia e così via. E quindi sono, potremmo dire, leggi formulate male. In realtà sono leggi razziste, a dirla in maniera po' fuori dai denti. La predisposizione, dunque, per l'accesso, quindi si vuole predisporre tutte le leggi, quello che si sarebbe dovuto fare ormai da 20 anni, per la concessione delle misure alternative agli immigrati condannati. Nono, il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, vabbè, questa le cui condizioni offendono la coscienza civile del paese. La decimo, revisione di altre misure di sicurezza divenute pressoché indistinguibili dalla pena carceraria, tutte le misure di sicurezza che oggi sono, si sono moltiplicate, facendo diventare questo paese in realtà un paese, uno stato di polizia. Ha perso questo, l'Italia, se l'ha mai avuto, forse l'ha avuto per qualche periodo molto breve, diciamo qualche mese, il carattere di stato di diritto. Stato di diritto significa che in genere le persone che vengono sequestrate, a cui viene tolta la libertà e i diritti, sono persone che hanno subito tutti i gradi di giudizio. Mentre invece gli stati di polizia sono stati in cui una persona può essere privata della propria libertà e dei propri diritti prima che intervenga un procedimento. Cioè, la differenza è che uno stato di diritto dice a un cittadino, questo lo dicono le costituzioni, un cittadino può essere privato della propria libertà e detenuto soltanto se l'autorità giudiziaria, in tutti i gradi di giudizio, in Italia sono tre, stabilisce che quella persona deve essere privata della libertà. Nessun altro potere, nessun'altra istituzione dello Stato ha questo potere. Questo lo dice la Costituzione, lo dicono le leggi. In realtà non è così. In Italia, appunto, le misure di sicurezza, che sono misure date non tanto dalla magistratura ma dagli organi amministrativi, il Ministero degli Interni, le questure, eccetera eccetera, sono divulgate, e questo fanno sì che l'Italia è formalmente, strutturalmente uno Stato di polizia, non è più nemmeno formalmente uno stato di diritto in cui valgono le leggi e chi le applica, ossia la magistratura. Ma se una questura chiama una persona e dice tu da oggi sei sottoposto a questa misura di sicurezza, questa cosa fa di quel paese uno stato di polizia. In uno stato di diritto le forze dell'ordine non hanno nessun potere sulla persona, devono solo eseguire gli ordini eventualmente della magistratura, devono rimettere, loro possono dire io penso che tu hai commesso un delitto, rimetto questa mia supposizione alla magistratura e la magistratura decide. Questo è il meccanismo di funzionamento dello Stato di diritto. Se l'organo di pubblica sicurezza esegue immediatamente la sua presunzione, dice io presumo che tu stai facendo una cosa illegale, ti prendo, ti sequestro, questa cosa caratterizza quel paese come stato di polizia. Ovviamente questa cosa sta succedendo in molti paesi, la trasformazione degli stati di diritto, anche se formali, quindi non era niente di eccezionale, però formalmente mantenevano ancora questa cosa, in stati di polizia. In Italia il processo è avanzatissimo, praticamente le misure di sicurezza esistenti oggi sono abbastanza simili, quasi altrettanto simili a quelle esistenti durante il periodo fascista. Ormai le differenze sono rimaste molto tenui, quelle tra la situazione attuale delle libertà sostanziali e quelle esistenti durante il regime fascista. Molto le misure di sicurezza poi sono un'invenzione proprio non c'erano nemmeno al tempo del codice Zanardelli, sono state introdotte, vabbè, poi successivamente nelle modifiche al codice Zanardelli dallo Stato Sabaudo, che era abbastanza reazionario e repressivo, uno degli stati più indegni esistenti al mondo, lo Stato Sabaudo, con buona pace di chi festeggia 150 anni di questa occupazione militare di tutto il territorio italiano da parte di una classe dirigente, appunto lo Stato Sabaudo, tra dei peggiori che c'erano in Europa, e poi ovviamente ratificate e messe, diciamo, con più forza dal regime fascista, che ha operato abbastanza in continuità con lo Stato Sabaudo, non è che perché non era un granché, anche comunque ha introdotto formalmente le misure di sicurezza come potere esecutivo delle forze dell'ordine, quindi la questura chiamava e ti imponeva delle restrizioni di libertà. Queste cose stanno tornando pesantemente, dunque l'Italia è diventato a tutti gli effetti uno stato di polizia. Ecco, queste misure adesso che invece ha detto il PD, perché sta all'opposizione e non sapeva che queste cose non sarebbero state attuate, quindi le ha dette un po' forse per farsi bello, noi teniamole presente e quando ci sarà il cambio del governo e andranno al governo dovremo andare in parecchi però a chiedere che queste cose, visto che le hanno dette, le hanno messe per scritto, queste loro proposte, al momento che andranno al governo, in maniera abbastanza rapida e veloce le facciano diventare leggi effettive. E allora, con l'augurio di Rino Gaetano che il cielo è sempre più blu, cioè nel senso che le cose possono essere cambiate, sta a noi cambiarle, e finisce questa trasmissione, termina questa trasmissione con l'augurio che tutte coloro che sono privati della propria libertà possano riacquistarla al più presto. Con la speranza, appunto, che il cielo diventi sempre più blu, insomma, che non sia solo un modo di dire. Ok, un salutone a tutti e a tutti, ciao. Ah, ci sentiamo mercoledì prossimo, sempre dalle frequenze di Radio Onda Rossa, sempre dalle 15 alle 16. Buona libertà a tutti e tutte. Quando uscirò di qui sarò più bravo, quando uscirò di qui più responsabile, quando uscirò di qui sarò più saggio, quando uscirò non mi farò peccare.